GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, emergenza idrica risolta ad Aviano e Polcenigo, criticità in via di superamento a Caneva. La carenza di anestesisti al Burlo di Trieste, per il sindacato Aro e l'istituto non è attrattivo, i turni sono sempre più gravosi, tra guardie e reperibilità. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con il più basso tasso di dispersione scolastica, ma le prove in Valsi non offrono un quadro confortante sulla qualità dell'apprendimento tra gli studenti, al via il piano per supportare le scuole. Con il PIL regionale in crescita, il tasso di occupazione è superiore rispetto alla media nazionale. Questo in sintesi quanto emerge dal rapporto sociale regionale per il 2023 dell'INPS, che sta lavorando anche sulla tutela di nuove figure che si stanno affermando nel mercato del lavoro in evoluzione. Scoperto all'Università di Udine un nuovo convertitore chimico in grado di trasformare a basse temperature con una sola operazione il metano in metanolo, un carburante liquido facilmente trasportabile e più sostenibile. Barcolana di Trieste, iscritti a quota 1700, oggi Maxi e Solaris impegnati nella prova costiera sul campo di regata della Coppa d'Autunno. Protagonista Caterina Banti, due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi, che partecipa alla regata Women in Sailing. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo, che vi parla per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Tra gli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione, anche l'acqua torbida dai rubinetti dei comuni di Aviano, Polcenigo e Caneva, situazione che, comunica Idrogea, è stata risolta poco fa nei primi due comuni. Ieri Idrogea ci ha segnalato che ci potevano essere delle criticità sulle reti acquedottistiche e a scopo precauzionale abbiamo diramato un avviso alla cittadinanza di non utilizzare l'acqua per scopi alimentari. Un'emergenza che per fortuna già oggi sembra sulla via del rientro. L'acqua che sgorga dal rubinetto Polcenigo stamani era già limpida. Il fenomeno transitorio di torbidità che ha interessato i comuni pedemontani del Friuli occidentale, Polcenigo, Aviano e Caneva, è in fase di risoluzione. A mezzogiorno l'avviso comunicato da Idrogea ai sindaci sull'esaurimento dell'emergenza idrica, iniziata 24 ore dopo l'evento meteorologico dello scorso 8 ottobre e che aveva imposto la raccomandazione di non utilizzare l'acqua per uso potabile e alimentare. Oggi l'indice di torbidità è nuovamente inferiore a 1 a Polcenigo e Aviano, su valori limite fissati a 5 da protocollo con l'azienda sanitaria. L'emergenza invece è in via di superamento a Caneva, in particolare per il parametro in uscita dall'impianto di potabilizzazione del molinetto. Renato Villalta è direttore generale Idrogea. Dopo l'evento estremamente severo di martedì, pensate, sono caduti più di 350 mm di pioggia in 9 ore. È evidente che ha avuto dei riflessi sulla rete acquedottistica, che però ha risposto molto bene, tant'è che già oggi possiamo dire che l'episodio transitorio di torbidità è superato nei comuni di Aviano e di Polcenigo ed è in via di esaurimento anche a Caneva. Per essere chiari, per la cittadinanza, superato significa che l'acqua del rubinetto si può bere tranquillamente? Significa che i livelli di torbidità sono conformi con le indicazioni previste dal decreto legislativo 18/2023 e da quanto stabilito dall'azienda sanitaria della Direzione Centrale Salute. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine proseguono i preparativi in vista della partita di Nations League che lunedì sera sarà disputata a porte aperte tra Italia e Israele, che ha già sollevato alcune polemiche. Intanto dal Comitato Sicurezza, che si è riunito stamattina, non è trapelato nulla, anche se si percepisce un clima di preoccupazione. Massimo riserbo, ma anche evidentemente molta preoccupazione. La partita di Nations League Italia-Israele e di più il corteo pro-Palestina che anticiperà la gara e che partirà da Piazza della Repubblica alle 17 per raggiungere Piazza 20 Settembre richiedono massima attenzione da parte delle forze dell'ordine. Questa mattina, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con l'istituzione di un comando operativo interforze, il prefetto di Udine Lione non ha rilasciato nessuna dichiarazione, nemmeno su quanti uomini appartenenti alle varie forze dell'ordine saranno impegnati. Il capoluogo friulano si prepara quindi a vivere un lunedì ad alta tensione. Ci saranno posti di blocco all'ingresso della città per effettuare controlli sulle persone che parteciperanno al corteo e su quelle che saranno presenti allo stadio. Confermate le indicazioni dei giorni scorsi, l'incontro sarà a porte aperte, ma gli ingressi allo stadio saranno controllati da 450 steward e attorno alla struttura sarà istituita una zona rossa off limits già da sabato sera. L'ordinanza relativa alle evento sportivo sportivo vieta dalla mezzanotte di domani a quella di lunedì il transito e la sosta in via Moretti. Dalle 14 alle 18 del 14 ottobre sarà vietata la sosta in via Roma e via Europa Unita. Sosta vietata anche in piazzetta Bertrando dalle 16 alle 20. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È partito anche in Friuli Venezia Giulia il piano Agenda Nord per supportare le scuole con fondi nazionali ed europei a prevenire la dispersione scolastica, ma soprattutto la fragilità negli apprendimenti emersa dalle prove Invalsi, a cominciare dalle primarie, destinatarie dei finanziamenti 112 delle 150 scuole della regione. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni col più basso tasso di dispersione scolastica, circa il 9%, sotto la media nazionale, in linea con gli obiettivi europei, ma il suo primato appare minacciato dall'ancora diffusa fragilità negli apprendimenti, fragilità che è certificata dalle prove Invalsi, che hanno registrato tra gli studenti risultati ancora al di sotto della media ed è ritenuta uno dei fattori di rischio di abbandono scolastico. Con il piano Agenda Nord ora si cerca di aiutare le scuole con oltre 6.700.000 euro di fondi nazionali ed europei a fronteggiare il problema, a cominciare dalle primarie, finora rimaste escluse dai finanziamenti PNRR, centrati sullo stesso obiettivo. Tutte le 103 primarie della regione, in base al grado di fragilità riscontrato da Invalsi tra gli studenti, avranno a disposizione tra i 42 e i 64 mila euro per progettualità mirate a favore dei ragazzi. 45 sono nell'ex provincia di Udine, 19 in quella di Trieste, 26 nel Pordenonese e 13 nell'Isontino. Dagli elenchi delle 112 scuole della regione destinatarie dei finanziamenti individuati dal Ministero dell'Istruzione in mano all'Ufficio Scolastico Regionale spiccano poi altre 9 scuole, sempre in base ai dati Invalsi, considerate le più fragili negli apprendimenti della regione: 4 tra Monfalcone e Gorizia, 1 a Pordenone, 2 a Trieste e altrettante a Udine. Ad esse è stata per questo assegnata la quota più alta di finanziamenti, 140.000 euro ciascuna, per superare le difficoltà. L'Ufficio Scolastico Regionale affiancherà le scuole anche con un prossimo incontro nell'elaborazione delle progettualità che nella propria autonomia potranno decidere di presentare entro il 31 ottobre per poter fruire dei finanziamenti. I punti chiave di riferimento per i progetti fissati dal piano Agenda Nord vanno dalla personalizzazione dell'insegnamento alla didattica innovativa e alla scuola aperta con ampliamento del tempo scuola. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora torniamo a occuparci della carenza di anestesisti al Burlo di Trieste, che crea ritardi per gli interventi chirurgici non prioritari. Le 5 sale operatorie ordinarie sono state infatti ridotte del 25%. A intervenire sulla questione ora l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani regionale. È con grandissima preoccupazione che prendiamo atto di come la direzione strategica del Burlo Garofolo sta gestendo la gravissima carenza di anestesisti rianimatori nel centro di riferimento regionale per le cure pediatriche. Lo scrive l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani regionale. La questione è emersa in seguito alle segnalazioni delle lunghe attese per gli interventi ginecologici non oncologici, per i quali le pazienti con priorità bassa dovrebbero aspettare anche un anno. Gli anestesisti rimasti sono il 50% dell'organico storico. I turni sono sempre più gravosi tra guardie e reperibilità. Per organizzazione sindacale, nemmeno l'assunzione di 3 medici specializzandi, ai quali si aggiungono altri 3-4 non specialisti usciti dal concorso, risolverebbe i ritardi. Per quest'ultimi saranno necessari tutoraggi ed affiancamenti. È poi gravissimo per la ROIEMAC l'affidamento dell'attività anestesiologica a 2 liberi professionisti pensionati con contratto a 15 ore settimanali. Secondo il sindacato, questa strategia apre la porta a una pericolosa privatizzazione della sanità pubblica. Sarebbe la prima volta che in una sala operatoria gestita dall'apparato pubblico regionale entra il privato, sottolinea Alberto Peratoner, presidente Arroi EMAC regionale, che indica anche una soluzione, ormai messa da parte, lo spostamento dell'anestesia del Burlo sotto l'ombrello del Dipartimento di Anestesia a Sugi, garantendo più ricambio di personale. L'Arroi EMAC denuncia inoltre pessime relazioni tra i vertici dirigenziali dell'ospedale pediatrico e i sindacati e ha sollecitato un intervento urgente dell'assessore regionale alla sanità Riccardi. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il PIL del Friuli Venezia Giulia cresce, il tasso di occupazione è superiore rispetto alla media nazionale, questo in sintesi quanto emerge dal rapporto sociale regionale per il 2023 dell'INPS, che sta lavorando anche sulla tutela di nuove figure che si stanno affermando nel mercato di lavoro in via di evoluzione. Sentiamo il direttore regionale Mauro Saviano. I dati sono estremamente positivi, dimostrano un andamento del PIL regionale che supera i 23 miliardi di euro, contribuiamo per il 2,2% al totale del PIL nazionale E ovviamente la realtà registra un mercato del lavoro che ha dei chiaroscuri, perché i contratti di lavoro a tempo indeterminati sono in calo, e sono in crescita quelli di lavoro a tempo determinato intermittente. Questo si evidenzia anche da una crescita degli ammortizzatori sociali, delle NASPI, della cassa integrazione di circa il 4% rispetto all'anno precedente, ma il dato positivo è che il saldo tra assunzioni e cessazioni dei lavoratori registra un incremento di circa 8.000 posizioni in crescita di nuovi contratti. Questo vuol dire che il mercato del lavoro è in trasformazione, e che si va verso nuove forme di tutela dei lavoratori, nuove forme di approccio delle aziende, verso nuove forme di lavoro per le imprese all'interno delle società. Le garanzie però per l'economia dei friulani è assolutamente salda. Trieste, Eva Ciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. Gianluca Bertossi è il nuovo direttore di Wärtsilä Italia, carica che sarà effettiva dal 1 dicembre. Durante le prossime settimane Michele Cafagna e Bertossi lavoreranno assieme per garantire la continuità delle attività in corso, con particolare attenzione al programma Restart lanciato di recente, che supporta il processo di trasformazione dell'azienda. Dopo il passaggio di consegne, Cafagna continuerà l'attività nel suo ruolo di vicepresidente. La presidente amministratrice delegata di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro, ha incontrato a Trieste l'assessore al lavoro Alessia Rosolen. Un incontro che di fatto ha sancito il rinnovo delle attività che l'ente in-house del Ministero realizzerà sul territorio friulano con il programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, che punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive in una regione dove già i servizi per il lavoro sono in linea con i livelli essenziali delle prestazioni, hanno spiegato l'assessore Rosolen e Nicastro. L'obiettivo comune è quello di realizzare azioni su target specifici che possano poi diventare un modello di intervento di carattere generale, una sfida complessa che, hanno detto, vogliamo affrontare mettendo a fattore comune le competenze e le capacità delle strutture. È stato scoperto all'Università di Udine un nuovo convertitore chimico, cioè un catalizzatore, in grado di trasformare a basse temperature con una sola operazione il metano in metanolo, cioè in un carburante liquido facilmente trasportabile e più sostenibile. Il metano è infatti uno dei principali componenti del gas naturale, ha un potente effetto serra incidendo sul riscaldamento globale. Il metanolo invece è liquido, più facilmente trasportabile ed uno dei prodotti chimici più versatili per la transizione verso un futuro energetico più sostenibile. Il metanolo è anche utilizzato nella produzione chimica industriale, oltre che come carburante nel settore energetico. Il processo di trasformazione diretta del metano in metanolo, realizzato in questo studio, funziona a bassa temperatura e produce solo metanolo senza sottoprodotti. La scoperta rappresenta un importante contributo rispetto ai processi convenzionali più complessi e più costosi, che in genere richiedono reazioni separate, ciascuna in condizioni diverse a temperature molto più elevate. Ed eccoci alla pagina dedicata al meteo. Il cielo da sereno poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 18 gradi, a Gorizia 20, a Pordenone 19, a Udine 18 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 13 gradi, a Forni di Sopra 12 e 5, a Tarvisio 9, a Piancavallo 11, a Sappada 8, sul Monte Zoncolan 7 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 7, a Grado 19, a Lignano 17 gradi e 5 decimi. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con Marcellino Salvador, previsore dell'Osservatorio Meteo regionale. Per quanto riguarda il meteo nel weekend in regione, direi giornata di bel tempo sostanzialmente sabato, temperature minime intorno ai 10 gradi in pianura, sui 14-15 lungo la costa, sulla costa soffierà Borino. Nelle massime andremo intorno ai 22-23 gradi in pianura, quindi relativamente mite, 20-21 per quanto riguarda la costa. Nella giornata di domenica variabilità, scorre un po' di aria umida nei bassi strati dalla pianura padana verso il Friuli Venezia Giulia, da cui una nuvolosità variabile e sostanzialmente venti deboli, non ci saranno piogge, non ci sono perturbazioni. Molta umidità rimarrà poi anche per la giornata successiva, in particolare lunedì, ma ancora senza perturbazioni, e poi da martedì in poi si apre un periodo di maggior soleggiamento e di temperature buone come quelle ad esempio la giornata di domani sabato, e quindi dei toni d'autunno che saranno più tranquilli senza le piogge che abbiamo avuto in questo periodo e che sono state in certi momenti importanti. Quindi per domenica per la Barcolana niente pioggia ma venti non particolarmente forti per la regata? No. Sì, infatti si parla di poco vento, vento debole, poi ci sarà anche probabilmente un po' di nuvolosità, questo limiterà un po' le brezze, un po' di vento ci potrà essere ma sempre di entità decisamente modesta. Le temperature così più miti sui 22 gradi in pianura, 20-21 sulla costa, invece sono nella media del periodo oppure più favorevoli? Diciamo che cominceranno, specialmente al di là della parentesi di sabato che è abbastanza favorevole, quindi leggermente sopra, ma poi probabilmente saranno più sopra la media nella seconda parte della settimana, verso il 15, così 16, saremo sui 23-24 gradi, che sono valori superiori in maniera più decisa alla norma del periodo, quindi un autunno che assume dei toni un po' più tranquilli, miti e anche piacevoli da questo punto di vista. Giornata di chiusura per Barcolana Sea Summit dedicata alla relazione tra industria e ambiente. Sessione affidata all'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a Wendy Schmidt, trionfatrice dell'edizione 2022 della Coppa d'Autunno, e al presidente Mitja Jaluz. Mentre il villaggio Barcolana sulle rive si anima dopo la tempesta di ieri sera ed è pronto ad essere protagonista del tradizionale struscio del weekend, e mentre le barche escono per allenarsi sul campo di regata in vista di domenica, il venerdì è ormai tradizionalmente l'ultimo giorno del Barcolana Sea Summit, evento che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per parlare di futuro e soprattutto di sostenibilità e ambiente. Ridurre l'inquinamento in mare è una delle priorità, e così per questa edizione 56 della regata venica più amata, uno sponsor ha messo a disposizione 1000 spugne speciali per assorbire la benzina dalle imbarcazioni che accidentalmente durante i lavaggi rischia di finire in mare. Brevetto completamente italiano, un solo chilo assorbe fino a 6 tonnellate di oli ed è riutilizzabile fino a 200 volte. Il progetto di Lifeguide Sailing for Change va oltre la Barcolana e prevede la distribuzione di kit non solo per i diportisti ma anche per i porti stessi, con spugne speciali concepite per assorbire e stoccare gli oli presenti in tutta l'area portuale. L'edizione 2024 di Sea Summit, ampliata di un giorno e mezzo rispetto alle precedenti, ha aumentato anche gli spazi e ha riguardato non solo la sostenibilità ambientale ma anche l'energia, la sicurezza in mare e le relazioni tra industria e ambiente. Presente nel pomeriggio con un panel conclusivo Wendy Schmidt, la filantropa americana che ha vinto la Barcolana a sorpresa nel 2022 e che si è innamorata di manifestazione e città, parlerà a nome della sua fondazione che da quest'anno ha uno spazio espositivo in Piazza Unità. Trieste, Andrea Saula, TGR Friuli Venezia Giulia. Barcolana che entra nel vivo questo fine settimana, tra le protagoniste anche la velista Caterina Banti, fresca del secondo oro olimpico conquistato a Parigi. Banti parteciperà alla Coppa d'Autunno domenica, ma già questa mattina gareggia la Woman in Sailing, regata che promuove la parità di genere. Due ori nella vela alle Olimpiadi Tokyo 2020 e la scorsa estate ai Giochi di Parigi, 4 medaglie iridate ai mondiali, altri 4 ori agli europei. È lo strepitoso palmarès della velista Caterina Banti, a cui manca ancora però la Coppa d'Autunno, una sola barcolana al suo attivo nel 2018 per il 50esimo edizione dei record. Ci riproverà domenica insieme ad altri velisti del calibro di Giovanni Soldini sulla barca che sostiene Emergency. Credo fortemente che se indossi la maglia della nazionale, se rappresenti la nazione alle Olimpiadi, hai la responsabilità di rappresentare i valori dell'olimpismo, che sono il rispetto, la solidarietà, la pace, l'uguaglianza, la tolleranza, che sono diritti fondamentali anche dell'essere umano e sono diritti per i quali l'ONG Emergency combatte da anni. Quindi ho abbracciato questo progetto proprio perché credo fortemente in questi valori e credo che possano rendere il mondo migliore in cui viviamo, aiutare persone che hanno bisogno, per cui si batte Emergency ogni giorno. Ho avuto l'onore e il piacere di partecipare alla Barcolana del 2018 con le barche della federazione ed è stata un'esperienza bellissima. Dopo il secondo successo ai Giochi Olimpici lo scorso settembre, Banti ha annunciato di ritirarsi dall'agonismo. Ogni cosa ha il suo tempo, io ho 37 anni, penso fisicamente di aver dato il massimo, di aver dato veramente il massimo, abbiamo dato tantissimo come equipaggio, abbiamo vinto 2 ori olimpici, quindi adesso è il momento di dedicarsi ad altro e quindi sono assolutamente in pace con me stessa. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione della Barcolana, Trieste Trasporti ha dedicato una pagina del suo sito, da poco aggiornata, alle modifiche ai percorsi delle linee e alle corse aggiuntive. Questa è infatti la prima Barcolana che vedrà la presenza dei nuovi autobus elettrici. Prenderà avvio in questi giorni anche l'annunciata indagine sul gradimento dei nuovi mezzi da parte degli utilizzatori del trasporto pubblico locale, per tenere alta l'attenzione sul servizio, sui risultati raggiunti e sui possibili miglioramenti, utilizzando il QR code disponibile sul sito web e sui social di Trieste Trasporti, oltre che sugli schermi delle vetture alle fermate, gli utenti potranno esprimere il proprio parere sui nuovi mezzi e proporre possibili miglioramenti. Lisa Vittozzi è la vincitrice dell'atteso premio riservato all'atleta Fisi per il 2024. La campionessa di biathlon si è aggiudicata il riconoscimento per l'atleta della Federazione Italiana che si è maggiormente distinta nella scorsa stagione di competizioni. La 29enne portacolori del centro sportivo Carabinieri, la Sappadina, si è resa protagonista di una stagione indimenticabile in cui ha conquistato la classifica generale di Coppa del Mondo, le classifiche nelle specialità individuale pursuit, oltre al terzo posto nella graduatoria sprint. Passiamo al basket di Serie A2. Udine affronterà stasera in casa alle 20:30 la Sella 100, in un anticipo legato alle misure di sicurezza che da domani renderanno off limits l'area adiacente allo stadio Friuli per la partita di lunedì Italia-Israele. Il match precederà il derby con Cividale. Una notizia di servizio: riapre questo pomeriggio alle 18 il cavalcavia di Sistiana, per ora con una corsia per senso di marcia e con il limite di 30 km all'ora. La riapertura dopo 6 mesi di lavori. Friuli Venezia Giulia Strada intendeva far tornare in funzione la struttura in tempo per la Barcolana. Nelle prossime settimane l'intervento verrà completato con la segnaletica orizzontale con i giunti. Mancano poco più di 100 giorni all'inaugurazione di Go 2025 nel conto alla rovescia verso l'inaugurazione ufficiale dell'8 febbraio prossimo, data fortemente simbolica perché incrocia l'anniversario della scomparsa del poeta sloveno Franz Prešeren, giornata nazionale della cultura in Slovenia con la nascita del poeta italiano Giuseppe Ungaretti in prima linea sul confine nel corso del primo conflitto mondiale. Go 2025 comunica che sarà presente alla 76esima fiera del libro di Francoforte, dove l'Italia sarà paese ospite e dove il Friuli Venezia Giulia avrà un ruolo di specifica centralità in vista dell'imminente avvio della capitale europea della cultura, che conferma e rilancia la regione come crocevia culturale strategico del continente. Le iniziative di Francoforte prevedono eventi sia nel programma ufficiale che in un percorso di proposte del fuorisalone. Il GECT ha progettato lo spazio di riferimento per Go 25 alla Buchmesse intorno a un allestimento fortemente evocativo della piazza transalpina, dove senza soluzione di continuità ci si trova a cavallo tra Italia e Slovenia, tra Gorizia e Nova Gorizia. Quella allestita alla fiera sarà un'area immersiva situata all'interno del padiglione Italia e affacciata a sua volta sulla piazza principale del edificio italiano. Andrà in onda questa sera alle 23 sul canale Rai Storia della Rai il documentario firmato da Antonia Pillosio per la nostra sede Rai in occasione del centenario della nascita di Giuseppe Zigaina, uno dei più importanti pittori italiani del Novecento, nato a Cervignano il 2 aprile del 1924. L'artista verrà raccontato attraverso le parole di alcune delle persone che lo conobbero e lo frequentarono, dall'editore Carlo Feltrinelli allo stampatore Corrado Albicocco, al gallerista milanese Ruggero Montrasio, ai critici d'arte Marco Goldin, ai rappresentanti di istituzioni museali come Giuseppe Bergamini, Vania Granzinic e Isabella Reale. Ma è il ricordo della figlia Alessandra a contribuire alla definizione della figura del grande artista nel modo più personale ed emozionante. Non mancherà il ricordo di Pierpaolo Pasolini, legato a lui da profonda amicizia e da intenso percorso di ricerca. Per questa edizione del Giornale Radio è tutto. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Federico Comar e Samuel Montalto. Da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.